cose più profonde erano dentro te. Ricordo segni sul mio viso, segnali per chi resta indietro, ombre contorni indefiniti, forse li ho creati così anch'io. E ascolto musica distratta da uno stereo fuori moda, mentre il mondo intorno sembra una finzione. Ed io vivrò anche senza anima in questa città aliena. Film americani dove eroi ben vestiti uccidono i cattivi e una donna già li ama, ma quando apro le finestre nessun eroe per le strade, ma solo il odore di plastica orientale. Ed io vivrò anche senza anima in questa città aliena. Vicino a...